Tutto coopera al bene. Tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore e che sono chiamati secondo il suo disegno. Tutto coopera al bene, tutto coopera al bene. Che bella confessione, che bella verità. Tutto coopera al bene, tutto, dice questo verso. Ogni cosa, ogni singola cosa coopera al bene. Ogni cosa bella, ogni cosa brutta, ogni cosa che ti aspettavi, ogni cosa che non ti aspettavi, ogni cosa che sembra un incidente di percorso, ogni cosa che è lì perché doveva accadere, ogni cosa coopera al bene per coloro che amano il Signore. Amen. Amen. Il Signore fa cooperare il tutto al bene per coloro che amano il Signore. Questo è il mio messaggio di questa mattina. Io ho già finito perché l'ho detto così tante volte che credo che è entrato nelle nostre menti. Però ecco, io stamattina dovremmo leggere, cosa dovremmo leggere insieme? Ruth 3, siete con me? Allora è andata così, la preparazione è andata così, che in origine io con questa domenica avrei concluso le tre domeniche dedicate alla visione dell'anno, al tema dell'anno, al messaggio che il Signore affida a noi come Chiesa, che ricordiamocelo, qual è? Verso è pure scritto dietro, cioè è facile, ragazzi. Sto io ingombrando troppo, ma non sono così alto. Cos'è che dice questo tema? Verso la tua direzione, ok, ci siamo tutti ora. Verso la tua direzione, perché il nostro desiderio come Chiesa è andare non verso la direzione degli uomini, sciagurati coloro che seguono la direzione degli uomini, non verso la direzione del nostro istinto, sciagurati noi quando seguiamo il nostro istinto. Quanti si sono mai fatti male seguendo il proprio istinto, no? Tutti, andando a naso, andando per sensazioni, per emozioni. Non possiamo essere guidati dalle emozioni. Le emozioni vanno e vengono, le emozioni sono terribili perché ci entusiasmano ad andare in una direzione a volte, le emozioni. Ah, questa cosa è bellissima, questa cosa è entusiasmante, questa cosa mi riempie di vita, questa cosa è veramente gioiosa, questa cosa è proprio tutto ciò di cui avevo bisogno, e poi vivi quella cosa e rimani più vuoto di prima. Quanti hanno sperimentato questo nella propria vita, no? Le emozioni vanno e vengono, le emozioni, non fidarti delle emozioni, va bene? È un'altra predica questa, però che cosa voglio dire? Che noi abbiamo questo tema, il Signore ce lo sta affidando, perché ovunque nella parola di Dio, Lui vuole essere la nostra guida. Lui non vuole essere solo il nostro Salvatore, il nostro Signore che libera dai peccati, che ci dà la vita eterna. Lui vuole essere la nostra guida, il sommo pastore, colui che guida il nostro percorso terreno, perché Lui ci ha chiamati per un disegno, per una volontà. Tu hai un proposito, posso ricordartelo questa mattina? Tu hai un proposito di vita straordinario, tu vivi non per respirare, non per sopravvivere, tu vivi per avere una vita abbondante che è fatta di conquiste, che è fatta del soprannaturale che Dio vuole realizzare attraverso di te. Sono entusiasta più io di voi, sembra. Siete entusiasti anche voi di questo? Cioè, siete contenti che Dio ha un destino di vita per voi? Io sono entusiasta perché il Signore mi ha dato un destino di vita. È la cosa più bella. È la cosa più bella che mi potesse capitare dopo la salvezza eterna, che riuscirò ad assaporare veramente solo quando ci sarà il bivio alla morte, no? E vedrò l'inferno, e vedrò quanto terribile è quel luogo, e vedrò quanto è glorioso invece il luogo che Dio ha destinato per me. Quella è una cosa un po' futura, un po', no, lontana, però Dio ha fatto un'altra cosa, che è altrettanto gloriosa, permettermi di sperimentare, assaporare la vita eterna su questa terra, in questa vita terrena, avendo un destino per me e per te lo stesso. Dio ha un destino per la tua vita e quindi è meraviglioso. So che poi stai pensando al tuo bruttissimo lavoro che domani riprende. So che stai pensando a tutte le circostanze, dici: ma Mirko, com'è possibile che parli di destino di vita? Beh, perché tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore. E anche il peggiore dei lavori, anche la peggiore delle situazioni, chi è in Cristo vede miracoli accadere nei posti più brutti, più funesti, più tenebrosi. E allora il mio incoraggiamento per tutti noi è: addentriamoci pienamente in questa tematica, perché Lui vuole guidare guidarci e noi possiamo andare nella sua direzione. E quindi in queste tre domeniche il mio obiettivo era osservare la vita esemplare di Ruth, che innegabilmente è stata una donna guidata da Dio. Ora, nella Bibbia ce ne sono tanti di persone che potremmo prendere ad esempio perché sono state guidate da Dio, ma Ruth è una storia straordinaria perché lei era l'ultima candidata a poter essere guidata da Dio, era una straniera, non faceva parte del popolo di Dio, e poi la sua storia è terribile perché perde marito e quindi è vedova, straniera, è povera, miserabile, e si ritrova una suocera di cui si prende carico, anche lei che è rimasta vedova e che ha perso i due suoi figli, quindi una vedova sola, amareggiata e povera. Quindi Ruth si trova nella sua tragedia di vita a dover condividere il peso della responsabilità di una donna anziana che vive la sua tragedia di vita. E non so quando tu se ti sei mai trovato ad avere un periodo difficile, no? Situazioni difficili, una settimana buia, e viene quella persona che non ti fa la domanda come stai, cosa stai attraversando, che cosa vivi, e comincia a dirti tutte le sciagure della sua vita, no? Vedo che annuite, vedo che avete ben presente questa situazione, no? C'è chi viene e ti dice tutto quello che sta andando storto e male nella propria vita e tutte le sciagure che sta sopportando e sta attraversando, e te le riversa e te le mette come carico, e tu sei già caricato e quindi ora ti senti sovraccaricato. Ruth è in questa condizione, però la storia di Ruth è una storia di riscatto. E quindi io in queste tre settimane, nella prima domenica avrei predicato, come ho fatto, sul capitolo 1. La seconda domenica avrei predicato sul capitolo 2. E poi ho pensato, la terza domenica, visto che sono piuttosto corti gli ultimi due capitoli, predico sul capitolo 3 e il capitolo 4. Quindi oggi avremmo dovuto addentrarci nella storia di Ruth leggendo due capitoli di questo libro, 3 e 4. E vedere tutto e sviscerare tutto quello che c'è da sviscerare in questi due capitoli. Poi mi sono reso conto però che è troppa roba. Cioè, andateli a leggere, 3 e 4 sono più carichi del primo e del 2. E allora mi sono reso conto che forse non era la scelta giusta. E ho detto, Signore, io ho bisogno della tua direzione. Devo predicare sulla tua direzione e non ce l'ho io. Cioè, come faccio a predicare ora su due capitoli? E allora ho deciso, no, predichiamo solo sul terzo capitolo, ed è quello che vi ho detto la scorsa settimana. Quindi mi concentro solo sul capitolo 3 perché tanta roba, bellissimo, straordinario. Andiamo sul capitolo 3 e poi mi sono preparato sul capitolo 3. Ieri, mentre stavo concludendo la mia preparazione, il Signore mi diceva, no, ma non è questo quello che dovresti fare. Perché stai sovraccaricando la Chiesa di troppe, troppe informazioni. Ed è troppa roba. E quindi oggi io non predicherò né su 3 e 4, né sul capitolo 3, ma sicuramente predicherò su Ruth. Va bene? Rimaniamo sullo stesso libro, se no cambiamo proprio tema. No, ma il Signore proprio vuole che noi consideriamo quella che è la storia di Ruth. Però ci sono questi due aspetti che durante la settimana tornavano costantemente, del capitolo 2. Per chi non c'era, io vedo che anche questo è proprio profetico, no? Per alcuni che proprio non erano né domenica scorsa qui con noi, né due domeniche fa, il Signore è talmente buono, ti offre talmente grazia da non portarti in questo luogo e farti sentire estraneo, che non stai capendo niente di quello che sta vivendo, ma ha stabilito questa domenica per farti recuperare le due precedenti. Ora, da questa domenica, non mancare più a nessun incontro, ok? Perché se no non capirai niente di quello che è la storia di Ruth, di quello che sta accadendo. Però io voglio dare indicazione e qualche nozione delle scorse settimane. In modo particolare vorrei ricalcare quello che la scorsa settimana abbiamo visto, quale posizione che Ruth ha. Ci siamo posti la domanda come essere direzionati da Dio e come mettersi in condizione di essere meglio guidati da Dio. E quindi l'abbiamo chiesto a Ruth, ma tu cosa hai fatto per metterti in condizione di essere meglio guidato da Dio? E l'abbiamo scoperto insieme, l'abbiamo scoperto in un capitolo dove sembra che tutto sia a caso, perché c'è scritto che Ruth si trovò per caso in un terreno, Ma poi ti rendi conto che non è per niente per caso che Ruth si trova in quel terreno, perché quello è il terreno nel quale incontrerà il suo futuro marito, il suo riscatto, e la storia sarà riscritta. E Ruth ci mostra, il libro di Ruth ci mostra che Dio si serve di quello che all'apparenza può sembrare una casualità. Il caso è Dio all'opera sotto copertura. Dio sta operando nella tua vita sotto copertura. Non sempre parla con un angelo, non sempre parla in voce udibile, non sempre manifesta con miracoli e prodigi la sua volontà, non sempre ti dice ora devi fare questa scelta e ti dice tutti i passi che dovrai vivere per ottenere determinati obiettivi e determinate conquiste. A volte lui semplicemente ti fa capitare in un campo per caso. Ma quando tu sei allineato alla volontà di Dio, quel caso non è un caso, è proprio Dio che stabilisce dove ti trovi. E Ruth, noi vediamo nel primo capitolo, è completamente smarrita. L'abbiamo detto, è vedova, povera, sovraccaricata da una suocera, vedova, povera, a suo tempo, straniera. Però, e non sa nulla di quello che gli sta davanti. Però fa un'affermazione, che è la sua conversione, e dice questa frase, che vorrei rileggerla perché è la principale di tutto il libro. Ruth 1, versetto 16, disse a Noemi, o Naomi, non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. E poi aggiunge, dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta, il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Questa è una dichiarazione di amore, quale noi diamo al nostro marito, alla nostra moglie, finché morte ci separi. E Ruth dice, io non mi separo da te, Noemi, suocera mia. Non faccio alzare le mani, però forse non dovrei neanche farla questa domanda. Però pensa a tua suocera, no? Un attimino. E senza alzare le mani, senza fare sguardi che possono lasciarmi interpretare qualcosa, non ci sono momenti nei quali, proprio singoli, brevi momenti, sporadici nella tua vita, dove ti è passato così, proprio di sfuggita nella mente, ma quanto vorrei lasciarla questa suocera, eh? Quanto vorrei separarmi, vorrei che le nostre vite si separino. Ora, visto che mia suocera a volte segue le mie prediche, è importante che io dica che è una suocera meravigliosa, non lo dico per dire, è meravigliosa, l'amo tantissimo e non vorrei separarmi da lei, e non sono falso nel dirlo, però capite bene che è una relazione un po' particolare, no? È suocera-nuora, c'è una strana relazione qui che Ruth dice, no, questa è una relazione che io voglio vivere fino alla morte, e io mi voglio prendere carico, questo è amore sviscerato. E noi dobbiamo comprendere che la vita di Ruth cambia totalmente dal momento in cui lei fa questa dichiarazione e vive in accordo con questa dichiarazione. Ed è per questo che è così importante, ed è così importante che noi prendiamo in considerazione le parole di Ruth. Perché, vedete, Ruth cita addirittura la morte, lei non sa che cosa le starà davanti, non sa che cosa l'aspetta. Però dice, probabilmente moriremo, siamo povere, siamo vedove, non abbiamo futuro. Se non c'è qualcuno che faccia un miracolo nei nostri confronti, noi potremmo morire di fame. Era una situazione molto possibile, molto diffusa all'epoca. E quindi Ruth cita addirittura la morte. Non sa dove andrà, ma fa una scelta. Fa la scelta di seguire il Dio di Noemi e di seguire il popolo di Noemi, di appartenere al popolo di Dio. E questa cosa continuava a macinare dentro di me, perché l'abbiamo letto, Romani 8 dice tutto coopera al bene, per chi? Perché vi ho fatto salutare in questa maniera? Perché noi amiamo Dio, Siamo qui perché amiamo Dio. E allora possiamo salutarci dicendo: ricordati che tutto coopererà al bene. Perché tutto coopera al bene per chi? Per coloro che amano Dio. Non è un saluto che puoi offrire a chiunque. Non puoi offrire al primo passante, a una persona che sta seguendo le proprie emozioni, il proprio istinto, altri dei, altre convinzioni, altri uomini, altre religioni. Non puoi andare da loro e dire: guarda, tutto coopererà al bene nella tua vita. Non lo fare, perché è una bugia. Ed è un prendere una parte del verso tranciando una parte fondamentale, perché tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. E allora questa cosa io vorrei sottolinearla questa mattina. Sento l'urgenza di ricordarci che tutto coopera al bene nella vita di Ruth, perché lei ha scelto di seguire Dio, perché lei ha scelto di appropriarsi della relazione più importante, che non è quella con Naomi, non è quella con la suocera. La relazione più importante che Ruth sceglie di avere è con il Dio di Naomi. E allora la tua scelta migliore, che permetterà a te di vedere in ogni situazione di vita la mano potente, la mano miracolosa di Dio intervenire, la scelta più importante è amare Dio. E come fai ad amare Dio? Se vuoi alimentare il tuo amore per Dio, se vuoi crescere nel vincolo di amore per Dio, se oggi ti rendi conto che il tuo amore si è un po' spento, si è un po' affievolito, o è del tutto assente, cioè non puoi dire, se sei onesto con te stesso, che ami Dio, allora l'unico modo per poter amare Dio è questo: è riconoscere quanto tu sei amato da Lui. È l'unico modo. Perché Giovanni, 1 Giovanni, se non ricordo male, capitolo 4, vado a memoria, dice: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha dato il suo Figlio quale sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Quindi vuoi amare Dio? Vuoi crescere nell'amore con Lui? Vuoi vivere una relazione più profonda con Lui? Allora ricordati che tu sei amato da Lui. Ricordati che non sono i tuoi sforzi che creano questo vincolo, ma è il suo sforzo, il suo essersi fatto uomo, il suo essersi preso carico dei tuoi peccati, il suo andare e pagare sulla croce per te. Tutto quello che Lui ha fatto parla del suo amore immenso, eterno, immisurabile, di grazia nei tuoi confronti. E più sei consapevole di quanto sei amato da Dio, più la tua risposta naturale è amarlo. Perché è in questo che comprendi. Vedete, in questa settimana mi sono ritrovato con un ragazzo a parlare del timore di Dio, no? Parlava della vicenda di Noè, di Mosè, e di quanto il popolo a tratti era terrorizzato da Dio, e che in fondo Dio volesse che il popolo fosse terrorizzato dalla sua presenza. E il terrore dell'Eterno, il timore dell'Eterno, è un concetto straordinario nella parola di Dio, che noi troviamo in modo particolare nel Vecchio Testamento e negli episodi di Mosè, perché mettono in risalto quanto Dio è diverso da noi, distante da noi. Lui è perfetto, Lui è puro, Lui è santo, non può avere nulla a che vedere con noi che siamo macchiati, che pecchiamo, che abbiamo pensieri peccaminosi, atti impuri. Noi costantemente viviamo con una legge del peccato che dimora in noi e che ci porta a vivere quello che c'è scritto in Romani 7, che quello che vorremmo fare non facciamo e quello che non vorremmo fare quello facciamo. E noi ci troviamo in questa condizione, che ci rendiamo conto che siamo lontani da quella natura gloriosa di Dio, perfetta, allineata totalmente ai suoi comandamenti. E quindi il terrore del Signore è proprio questo concetto che ci fa capire che siamo distanti, che siamo separati, che siamo diversi, e che non siamo minimamente degni di entrare alla sua presenza. Addirittura chi entrava alla presenza di Dio moriva, moriva perché non poteva Dio reggere la presenza di qualcosa che fosse sporco, peccaminoso. E quando noi comprendiamo il concetto della gravità del peccato, la gravità della nostra condizione, la gravità della nostra disubbidienza, della nostra ribellione, quando noi leggiamo il Vecchio Testamento e ci appare questo Dio che è terribile, è tremendo, e suscita addirittura terrore, ci dà, tutto questo ci dà l'opportunità di comprendere quanta grazia ci è stata data. E che la grazia non dovrebbe essere considerato come un Dio che cambia idea sul peccato. Perché per il peccato lui è stato disposto a far morire il suo figlio, che era senza macchia, senza peccato, che ha vissuto la vita perfetta che noi siamo chiamati a vivere. Solo Gesù l'ha vissuta su questa terra, e poi lui, l'unico senza peccato, senza macchia, si è caricato di ogni peccato ed è stato punito sulla croce per i nostri peccati, per dare a noi l'opportunità di dire: siamo riscattati per l'amore di Dio e il nostro peccato è pagato, è punito, e quindi non dobbiamo morire alla sua presenza, perché è lui che si è fatto uomo ed è morto per noi per permetterci di entrare alla sua presenza. Quindi tutto questo per dire cosa? Sei amato da Dio. Sei tanto amato da Dio. Sei immensamente amato da Dio. E il peccato nella tua vita è qualcosa di terribile, che ha portato Dio a dover soffrire su quella croce. Chi è che ha messo in croce Gesù? Non sono stati i soldati romani, non sono stati i giudei che l'hanno accusato. Chi è che reggeva Gesù su quella croce? Non erano dei chiodi. Gesù in ogni istante poteva lasciare quella croce, non era retto su quella croce da dei chiodi. Lui è Dio, lui è onnipotente, lui poteva chiamare in un istante legioni di angeli ad intervenire, lui poteva lasciare la croce, ma perché era lì sofferente, appeso a una croce con dei chiodi? Perché? Per pagare il prezzo del mio e del tuo peccato. Oh, io vorrei parlare per ore dell'amore di Dio, perché è l'unica maniera attraverso la quale tu puoi crescere nell'amore nei suoi confronti. Se sai che sei amato, se sai che hai grazia da parte sua, se sai che tutto è stato pagato da lui per te, se sai che in maniera immeritata hai accesso alla vita eterna, alla sua presenza, non puoi guadagnartelo con le tue buone opere, con i tuoi buoni sforzi, nessuno di noi lo potrà mai fare, perché ci sarà sempre qualcosa che non andrà nelle nostre vite. Ma la buona notizia è questa, l'Evangelo è questo, che noi peccatori indegni siamo diventati degni e chiamati figli addirittura, per un riscatto, il riscatto più grande che si possa mai annunciare e ottenere nella vita, che non è il riscatto dalla povertà o dall'abbandono, o come nel caso di Ruth nel trovare marito che hai perso, no, il riscatto più grande è ottenere perdono dal Creatore e ripristinare un rapporto perso. E tu lo ottieni tutto questo non perché sei diventato più bravo, non perché sei diventato più buono. E puoi vivere una vita buona non perché tu sei buono, ma perché Dio è buono e Lui ti ama. E Lui ha pagato tutto. E quindi oggi possiamo ricordare che la scelta di Noemi è la scelta migliore che si possa fare. Seguire Dio, amare Dio. E ami Dio, e nel momento in cui ami Dio, se sai che lo ami, posso incoraggiarti ancora una volta questa mattina a considerare che tutto coopererà al bene. Se sai che lo ami. Io penso che forse qualcuno, visto il numero di persone che siamo qui, qualcuno starà soffrendo, qualcuno starà vivendo una situazione tenebrosa, forse qualcuno sta vivendo una stagione che è fra le più brutte della propria vita. E allora io ho da incoraggiarti e dirti: se ami il Signore, anche in questa condizione, tutto coopererà al bene. Amen. Tutto coopererà al bene. Fratello, sorella, amico, amica, se ami Dio, questo è ciò che conta. Tutto il resto troverà sistemazione, troverà un senso, e ti guarderai indietro e dirai: ma tu guarda questa sciagura di situazione, questa tragedia, questa cosa che mi toglieva il respiro, non mi faceva dormire la notte. Ora la posso guardare e riconoscere che è stata un'ulteriore occasione dove Dio ha manifestato la sua misericordia e il suo amore. Amen. Quanti possono dire: io se mi guardo indietro ne vedo di più di situazioni del genere? Io ricordo, io ho le lacrime che sto mantenendo nell'occhio, perché ricordo le cose che ho attraversato e di come poi tutto, oggi posso dire, veramente ha cooperato al bene. E posso incoraggiarti nel dire: so che magari non lo riesci a vedere, forse le mie parole non saranno insistenti abbastanza questa mattina, ma è così, fidati di Dio, non di me, fidati di Dio. Tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore. Allora amalo, amalo. L'altra cosa che continuava a tornare durante la settimana è: il tuo Dio sarà il mio Dio, dice Ruth, il tuo popolo sarà il mio popolo. Vedete, la fede in Dio e l'amore per Dio è sempre collegata all'appartenenza al suo popolo e all'entrare in un contesto che lui oggi chiama e ha stabilito che si chiami Chiesa. La Chiesa è la tua famiglia. La Chiesa è il luogo dei miracoli dove Dio vuole manifestare direzione nella tua vita. Se ti senti smarrito nella tua vita e vedi che le tue scelte non portano da nessuna parte, forse una domanda che ti devi porre è: sto vivendo l'appartenenza al popolo di Dio? Perché è di cruciale importanza, perché vedete, Dio non guida ciascuno di noi individualmente, lo fa, ma più volte nella Bibbia noi leggiamo che lui guida il suo gregge, il suo popolo, il suo esercito, la sua famiglia, noi. E quindi, se analizziamo anche la vita di Ruth, ci rendiamo conto di questa verità. Ci rendiamo conto che Ruth trova riscatto, trova provvidenza, trova aiuto, trova una nuova vita, sì, per Dio, ma anche perché entra a far parte di un popolo che ha determinate leggi, che vengono osservate da Boaz, e Boaz nell'osservarlo permette a lei di spigolare, e Boaz osservando la legge di Dio permette questo a lui di essere il parente di riscatto, il redentore, il parente redentore, che è tutto un concetto che vedremo nelle prossime settimane. Quindi non mancare, ma non mancare soprattutto perché la tua appartenenza alla Chiesa è cruciale se vuoi orientarti nel percorso che Dio ha per te. Tutti noi conosciamo quello che il Salmo 100 dice, no? Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Poi dice a un certo punto, Salmo 100, versetto 3, se non ricordo male, te l'ho mandato ma forse non l'hai caricato, o forse piuttosto stai parlando con qualcuno e quindi non stai seguendo la predica. L'ho scamata, si era distratta. Eccolo, che bello vivere nel contesto di grazia, è vero? Non faccio neanche il tuo nome, così nessuno sa chi è alle proiezioni questa mattina. Bello vivere in un contesto di grazia dove non c'è accusa, non c'è giudizio, dove non si vive nella cultura del mettere del disonore. Ti vogliamo bene, Sara. Ti perdono. Egli ha dato, no, Salmo 100. Ti perdono di nuovo. Ce l'hai Salmo 100? Non ce l'hai, non l'ha caricato, non ha letto neanche l'email. Pensate un po'. Però il Salmo 100, ve lo leggo io. Non c'è neanche nei miei appunti. No, c'è nei miei appunti. Dice: riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Dio ha cura di te. Dio ha cura di me. Noi siamo parte del Suo gregge. E allora cosa voglio dirci questa mattina? Vivi l'appartenenza alla Chiesa. C'è sempre un Boaz nel suo popolo. Vivi l'appartenenza alla Chiesa, perché è nella Chiesa che avrai provvidenza, avrai cura, avrai indicazioni. Sempre la scorsa settimana ho mandato un messaggio a un fratello della nostra Chiesa per una situazione che lui sta vivendo e gli ho suggerito: fatti aiutare. Fatti aiutare, non rimanere solo. Fai un percorso, in questo percorso fatti aiutare per il bene tuo, per il bene del tuo matrimonio, per il bene della tua famiglia. Questo è il privilegio che noi abbiamo. Forse quel fratello avrebbe voluto sentire: senti, ho una parola da parte del Signore ed è Dio che in questo momento mi sta mandando un messaggio diretto per te. E il messaggio è questo: devi fare questo, quest'altro, quest'altro ancora, e poi Dio farà questo, quest'altro e quest'altro ancora nella tua vita. Io credo che sarebbe rimasto stupefatto di questo messaggio e l'avrebbe ascoltato e l'avrebbe seguito alla lettera. Perché? Perché è Dio che parla. Ancora di più, immaginate un po', se mandando questo messaggio a me, questo fratello, avesse ricevuto la visione di un angelo, la presenza di un angelo nella propria stanza. Un angelo che gli dice: tranquillo, tutto è sotto controllo, Dio ha guida di te, Lui vuole salvare la tua vita, vuole salvare il tuo matrimonio, vuole il meglio per la tua famiglia, fai questo, fai quest'altro e quest'altro ancora. La cattiva notizia è che Dio non sempre manda un angelo. La cattiva notizia è che non sempre Dio ha un messaggio diretto che viene da Lui per ciascuno di noi nell'edificazione reciproca, per salvare i nostri matrimoni e le nostre famiglie. Ma sempre Dio ha stabilito la Chiesa quale contesto spirituale soprannaturale per portare edificazione, libertà, vittoria e conquista nelle proprie vite. Quindi, appartieni al suo popolo. Ruth trova riscatto perché dice: il tuo Dio sarà il mio Dio, ma anche il tuo popolo sarà il mio popolo. Vogliamo alzarci in piedi? Io vorrei pregare in queste due direzioni. Vorrei pregare nella direzione dell'amare Dio e vorrei pregare nella direzione dell'appartenere al suo popolo. Voglio pregare per chiunque ha bisogno di un Boaz nella propria vita, uno che lo aiuta, lo riscatta, lo sostiene, gli dà indicazione, lo protegge. Voglio pregare anche per coloro che in mezzo a noi sono chiamati ad essere il Boaz per qualcun altro. Forse non ci sei stato nelle scorse domeniche e non sai di che cosa parlo. Allora vieni nelle prossime così capirai chi è Boaz. Però tu puoi essere quel mezzo di cui Dio si serve per portare con la tua generosità benedizione nella vita di altri. Forse il Signore ti sta chiedendo e ti sta dando l'opportunità di accudire qualcuno, di proteggere qualcuno, come Boaz ha fatto. Forse il Signore ti sta dando l'opportunità di vedere il bisogno di qualcuno, anche economico, e dire: sì, forse non ho tutte le ricchezze di questo mondo, ma sto messo meglio di quella persona e posso prendere una parte dei miei risparmi per aiutare questa persona. Vi racconto una storia. Sarò breve, però per me è indelebile nella memoria, perché circa 20 anni fa ero in Australia, in un'altra chiesa, e incrociai più volte questo fratello che così si interessò a me e parlavamo, conversavamo. Era una bella relazione, però una relazione piuttosto superficiale. Venne il giorno nel quale lui mi domandò: come stai? Come vivi a casa? Ed era inverno, e per chi è stato in Australia sa che le case sono costruite male, un po' come le nostre, forse peggio. Fredde, fredde, a meno che sei disposto a pagare centinaia e centinaia di dollari per riscaldarle. E noi eravamo degli squattrinati studenti in una casa che andava riscaldata, ma non avevamo i soldi per riscaldarla, quindi faceva veramente freddo. E glielo dissi a questo fratello, dissi, sai, avete delle case pessime qui in Australia. Mi manca l'Italia, noi stiamo messi male, ma voi proprio... E così mi cominciai a sfogare, ma in maniera divertita. E lui prese il suo portafoglio e tirò fuori un paio di banconote da centinaia di dollari e me le diede. Disse, senti, io voglio darti questo, comprati una coperta in più, compriti una stufetta, fai qualcosa. E dissi, ma non posso accettare, perché mi devi dare ora dei soldi? E lui mi disse, li devi accettare perché non sono io che te li sto dando, ma è il Signore che si sta servendo di me per benedire la tua vita. E nel rifiutarli blocchi quella che è la benedizione che tu avrai, ma anche la benedizione che io avrò nel darteli. E quindi dissi, va bene, non insistere, me li prendo, mi hai convinto. Ebbi quei soldi, ebbi modo di comprare veramente un bel piumone, che ahimè ho lasciato in Australia, ora mi sto ricordando, che è ancora lì. E poi la domenica successiva lo incrociai di nuovo. E disse, vieni con me, vieni in macchina, ho qualcosa per te. E oltre quelle centinaia di dollari che mi aveva dato, mi ha portato nella macchina sua, aveva comprato una stufetta per me. Una stufetta fantastica, non avevo mai avuto una stufetta elettrica. Era bellissima, aveva tutti i comandi, l'aveva comprata nuova per me. Non aveva preso qualcosa di superfluo che aveva in cantina. È andato in un negozio e ha comprato questa cosa per me. E non vedeva l'ora di incrociarmi per darmela. E vedete come io mi ricordo di lui? Io non mi ricordo il suo nome, ma io mi ricordo la sua generosità. E qualcuno ha detto che non saremo ricordati per quanto avremo accumulato, ma saremo ricordati per quanto siamo disposti a dare, a vivere per il bene di altri. Allora forse questa mattina devi riconsiderare il fatto che non sei più tanto una Ruth, ma sei un Boaz, di cui Dio si vuole servire per benedire il suo popolo, e sei nella chiesa non per partecipare a un incontro domenicale. Sei nella chiesa per rintracciare fratelli e sorelle, per benedirli, per pregare, per imporre le tue mani se sono malati e per pregare per guarigione, per intervenire se hanno un bisogno. Ma tutto questo avviene se sei parte, se appartieni alla chiesa. Se non sei un ospite o quello che sempre più vediamo, che era prima una cosa vera per i cattolici, ma sta cominciando a diventare vera anche per gli evangelici. Fedeli non praticanti. Se sei fedele devi essere per forza praticante, altrimenti è un fuori, è un controsenso. Sei in questa chiesa perché Dio ha un destino in questa chiesa fin quando tu sei qui. E poi forse come Rosanna ti troverai all'altra parte del mondo, in un altro contesto dove potrai creare chiesa, fare chiesa, essere un Boaz per chi ne ha bisogno, ma avendo maturato come lei ha fatto tante cose nel contesto di chiesa. Vogliamo pregare? Vogliamo pregare gli uni per gli altri? Vogliamo pregare per il suo amore che ci riempia, che ci inondi completamente. Vogliamo pregare gli uni per gli altri affinché nel suo popolo ognuno possa trovare ristoro, forza. So che forse chiedo molto per chi è più introverso e più timido, però una cosa bella della Chiesa è che proprio ci spinge a superare la timidezza, a superare l'essere introversi e ad andare verso l'altro. Allora creerò un po' un momento scomodo per alcuni, però vorrei che noi creassimo dei piccoli gruppi di 3-4 persone che in questi gruppi piccoli, possibilmente con persone con le quali solitamente non preghiamo, che possiamo pregare gli uni per gli altri. E se hai una parola da parte del Signore, che tu la possa dare. Perché il Signore si vuole servire di te per edificare il tuo fratello, la tua sorella, ma ti vuole dare anche la possibilità, questa mattina, se hai un bisogno, di ricevere aiuto. E allora nel piccolo gruppo sii aperto, se hai un bisogno, se durante questo messaggio ti è venuto in mente proprio qualcosa che devi superare, qualcosa che devi affrontare, dillo ai tuoi fratelli, dillo alle tue sorelle, non essere timide, non lo tenere per te, perché Dio vuole che ci confidiamo gli uni con gli altri, proprio per essere uno di supporto all'altro. Allora di, senti, io ho un problema economico, in famiglia o nel matrimonio, potete pregare per me? E io sono convinto che succederà qualcosa in questo tempo che ci stiamo ritagliando. Lo vogliamo vivere? Se proprio non lo vuoi vivere con nessuno, allora vieni qui avanti, vivilo con me. Prego io per te, va bene? Ma che nessuno rimanga da solo, perché il Signore vuole intervenire in questo incontro e in questa occasione insieme. Forza, creiamo questi gruppi, preghiamo, chiediamo, se c'è una richiesta di preghiera, interveniamo gli uni a favore degli altri.